This game can't last forever. Why? We cannot live together. Try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Tearing me apart. Midnight. call my own, and I just want to dream. I don't have to dream alone. Midnight lady, love takes time. Midnight lady, it's hard to find. Midnight lady, I call your name. I know you can ease my pain. Midnight lady, just you and me. Midnight lady, eternally. Midnight lady, your arms, I'll get high. Midnight lady, love takes time. Midnight lady, hard to find. Midnight lady, I call your name. I know you can ease my pain. Midnight lady, just you and me. Midnight lady, eternally. Midnight lady, if I can fly in your arms. We'll be right back. tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. Storie ferme sulle panchine, in attesa che un lieto fine. Storie di noi brava gente, che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità, per tutti quelli così come noi, ma sempre in corsa, sempre a metà. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è grande come me vorrei. Storie come amici perduti, che cambiano strada se li saluti. Storie che non fanno rumore, come una stanza chiusa a chiave. Storie che non hanno futuro, con un piccolo punto su un grande muro, per scriverci un rigo a una donna che non c'è più. Un giorno in più che se ne va, un uomo stanco che nessuno ascolterà, per tutti quelli così come noi, senza trionfi e grossi guai. Un giorno in più che passo ormai, con questo amore che non è bello come vorrei. Storie come anelli di fumo in un posto lontano, senza nessuno, solo una notte che non finisce. Se ne va dimenticato tra Thank you. Oh,

give.